Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17, 7 minuti e 50 secondi. Buonasera, gentili ascoltatori, e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 è il numero per intervenire in diretta via SMS. Per un attimo abbiamo temuto il peggio appena sono iniziate ad uscire le agenzie con le parole di Ben Bernanke. Milano era arrivata a perdere oltre il 3%, l'America perdeva oltre un punto e mezzo percentuale, adesso si va piano piano recuperando qualcosa. Il FTSE MIB cede lo 0,75%, il FTSE share lo 0,68%. Peggio fanno altre piazze finanziarie europee come Francoforte, che è andata peggio di tutte le altre per tutta la giornata, a dire il vero, meno 0,97%, ed è addirittura positiva New York con il Dow Jones che guadagna lo 0,24%, il Nasdaq l'1,34%. Parleremo naturalmente di questo, ossia dei mercati, e parleremo anche di quel che ha detto Ben Bernanke nel corso di questa puntata di Focus Economia. E poi torneremo sui temi della manovra. Ospiteremo oggi il presidente dei dottori commercialisti ed esperti contabili per capire qual è la loro posizione, insomma, in quale direzione secondo loro dovrebbero orientarsi le modifiche alla manovra, che nel frattempo continuano a piovere. E poi approfondiremo un tema che forse vi sembrerà poco da Focus Economia, ma in realtà lo è, che è la questione dello sciopero dei calciatori. Cercheremo di dare anche qualche chiarimento, perché intorno a questa vicenda si è fatta anche un po' di demagogia, il tema dello sciopero dei miliardari. Insomma, non è solamente per il contributo di solidarietà che scioperano, naturalmente c'è in mezzo anche quello. È un tema correlato comunque alla manovra e che ha un impatto economico soprattutto su chi ovviamente deve trasmettere le partite e su chi ha naturalmente dei programmi di sport, oltre che ovviamente sulle società di calcio. Parleremo di questo. Adesso le notizie in breve. Il petrolio innanzitutto, che a New York in apertura ha aperto in netto calo a New York, $83,91 al barile, in realtà sta ritornando vicino alla parità rispetto a quello che era ieri, a $85,12 al barile, cede uno 0,21% in questo momento, mentre addirittura guadagna il Brent, che guadagna lo 0,17%. Subito dopo le parole di Bernanke, peraltro, è balzato l'oro sul mercato di New York, è volato a quota $1,800 l'oncia, segnando un rialzo del 2,1%. Dunque, che cosa ha detto Bernanke? Allora, ha detto, per quanto riguarda la Fed, che ha una gamma di strumenti per stimolare la crescita e continuerà a valutarli nella riunione di settembre, che sarà di 2 giorni e non di uno, escludendo almeno per il momento la possibilità di una terza tornata di iniezione di liquidità, quel tipo di iniezione di liquidità non convenzionale che va sotto il nome di quantitative easing. Dice comunque la Fed di essere pronta a sostenere la crescita, anche perché la velocità della ripresa delude e i rischi pesano. Misure per la crescita che arriveranno a settembre, come si diceva, e poi Bernanke ha fatto un riferimento all'Europa. Si dice convinto che l'Europa farà il necessario per uscire dalla crisi. Ne parleremo più avanti. Nel frattempo dagli Stati Uniti sono arrivati anche dei dati, quelli per esempio sul PIL del secondo trimestre. È stato tagliato all'1% per quanto riguarda il secondo trimestre, rivista al ribasso la stima precedente dell'1,3%. In questo caso hanno pesato le esportazioni più deboli del previsto, che hanno appunto causato la revisione al ribasso. Le vendite all'estero sono aumentate del 3,1%, comunque le importazioni sono salite dell'1,9%. Le spese dei consumatori sono aumentate dello 0,4%, il rialzo più basso da un anno. Poi c'è l'indice di fiducia del Michigan, ossia che è l'indice di fiducia dei consumatori americani, che è misurato dall'Università del Michigan, che si è attestato in agosto a 55,7 punti a fronte dei 63,7 del mese scorso. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni, abbiamo quella del capo economista di Goldman Sachs, Jan Hatzius, spero di aver pronunciato giusto, in un'intervista alla CNBC dice che il PIL è del secondo trimestre è in linea con le attese, ma Goldman Sachs si attende un terzo e un quarto trimestre deboli e c'è una possibilità su tre che gli Stati Uniti scivolino in recessione. Poi, e parliamo sempre dei movimenti subito dopo le parole di Bernanke, poi le cose sono tornate a tranquillizzarsi in parte, è tornato a crescere lo spread tra BTP decennale e Bund tedesco, ossia il differenziale di rendimento tra i titoli, la forbice è salita a 295 punti, in mattinata era scesa fino a 284, poi ha ritracciato ancora, tra l'altro in una mattinata nella quale c'è stata un'asta di titoli di Stato italiani, bot a 6 mesi, con rendimenti in calo, e questa è una buona notizia, del 2,14%, in calo rispetto al 2,269 dell'asta precedente, e poi CTZ con scadenza nel 2013, rendimento al 3,408%, in calo dall'oltre 4 dell'ultima asta. La Finlandia, la vicenda della Finlandia ve l'abbiamo raccontato, che chiede garanzia alla Grecia, dei cosiddetti collaterali, di fatto del denaro a garanzia dei prestiti. Ebbene, la Finlandia dice di stimare non negoziabile il principio di una garanzia da parte di Atene come contropartita della partecipazione di Helsinki al secondo piano di aiuti alla Grecia. Come sapete, questo sta creando parecchi problemi a livello europeo. E poi dall'Italia c'è la Fiat, dopo un colloquio telefonico con il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi, l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne ha confermato l'avvio degli investimenti previsti per lo stabilimento di Grugliasco, dove verranno prodotte automobili con il marchio Maserati, lo afferma una nota del Lingotto. La decisione è stata presa basandosi sulle dichiarazioni del ministro, che ha confermato la determinazione del governo a rendere operative le misure di interesse aziendale previste dal decreto del 12 agosto scorso. Tra l'altro stiamo cercando di raggiungere in redazione il ministro del welfare Maurizio Sacconi per un commento a questa vicenda. Naturalmente, se arriverà nel corso della trasmissione, vi forniremo una voce del ministro, appunto. E poi l'altra notizia di giornata, naturalmente, è che è saltata data da destinarsi la prima giornata del campionato di calcio di Serie A in programma originariamente per questo weekend, quindi non tecnicamente uno sciopero, ma in realtà un vero e proprio rinvio. Di questo parleremo più avanti, ora ci occupiamo di manovra. Giudizio dell'antitrust oggi, la manovra va nella giusta direzione dell'apertura dei mercati, ma per ottenere i risultati sperati occorre rivedere alcune norme che potrebbero produrre effetti opposti a quelli desiderati. Secondo i calcoli della CGA di Mestre, se verrà confermato l'aumento dell'IVA di un punto dal 20 al 21%, la spesa delle famiglie subirà un incremento medio annuo di 92 euro. Poi ci sono alcune dichiarazioni, quelle per esempio del ministro degli esteri Franco Frattini, il quale si esprime su quello che vi abbiamo raccontato ieri, la cosiddetta tassa sull'evasione proposta da Roberto Calderoli, dal ministro per la semplificazione. Non la posso commentare perché non l'ho capita bene davvero neanche io, dice Frattini. Così Roberto Maroni invece su Italia ai comuni. Mi pare che siamo sulla buona strada. Il confronto, il dibattito, il fiorire di proposte che c'è stato in questi giorni è stato molto utile. Lunedì ci sarà l'incontro tra Bossi e Berlusconi, l'incontro risolutivo nel corso del quale verrà raggiunto l'accordo che porterà alla versione definitiva della manovra. Apprendiamo nel frattempo che l'Unione delle Province Italiane ha ricevuto rassicurazioni sul taglio delle province, che i piccoli comuni hanno ricevuto rassicurazioni sul taglio dei piccoli comuni. Chissà dove andrà a finire questa manovra. Ha parlato di fiorire di proposte il ministro degli interni Roberto Maroni e noi vogliamo ascoltare oggi le proposte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili con il presidente Claudio Siciliotti. Buonasera e grazie per essere con noi, Siciliotti. Buonasera a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, abbiamo ampiamente raccontato di come delle critiche che ci sono state a questa manovra e di come si sta evolvendo il termine degli emendamenti è lunedì, il termine per presentare gli emendamenti è lunedì e supponiamo che ce ne saranno parecchi naturalmente nelle prossime ore, non ultimi quelli che arriveranno presumibilmente dalla cena tra Berlusconi e Bossi prevista per lunedì sera e che potrebbe buttare, come avete sentito ieri, come abbiamo raccontato ieri, ad un maxi emendamento interamente sostitutivo della manovra sul quale poi il governo potrebbe mettere la fiducia. Quello che vogliamo sentire da lei, Siciliotti, è che idea vi siete fatti su come affrontare questa contingenza e questi, come dire, queste tensioni sui mercati. Ma guardi, il problema dell'Italia è la crescita che manca. Noi abbiamo una progressiva decrescita decennio dopo decennio dell'incremento del PIL. L'ultimo dato riferito alla prima decade del 2010 degli anni 2000 è sostanzialmente piatto, più 0,2 in 10 anni, quindi questo è il tema. Non credo che bastino 3 giorni per risolvere questo problema, probabilmente bastano per chiudere una manovra che accontenti i mercati, non bastano per risolvere i problemi di questo paese. Allora, a nostro giudizio, l'abbiamo detto più volte, il paese ricresce nel momento in cui viene alleggerita l'imposizione sul lavoro dipendente e autonomo, perché è questo che dà sviluppo e crescita a un paese. Chiaramente non è aria oggi per ridurre le imposte e quindi bisogna trovare queste disponibilità da altre parti e credo che tutti debbano fare la loro, quindi una politica che deve essere sicuramente ridefinita, il discorso delle province, soprattutto il problema non è quanto prendono i vari politici ma quanti prendono, il numero esteso che deve essere sicuramente ridotto. Va rivista anche l'idea dello Stato, forse abbiamo bisogno di uno Stato più snello che si occupi di giustizia, di sanità, di difesa, di istruzione, di sicurezza, ma non molto di più. Bisogna immaginare, altra cosa, di alzare l'età pensionabile. Perché le do un dato che mi ha rabbrividito, l'ho letto pochi giorni fa: in Italia nella fascia tra 55 e 65 anni lavora il 30% delle persone, meno della metà della Svezia. Io credo che si debba dire a tutte queste persone: non ti chiedo di prendere di meno, ti chiedo di lavorare di più per il tuo paese. Poi bisogna fare una seria lotta all'evasione fiscale, non possiamo tollerare, l'ha detto il capo dello Stato, siamo d'accordo tutti, non possiamo tollerare di essere il secondo paese al mondo dopo la Grecia e quindi redditometro, come abbiamo detto già 3 anni fa e si sta facendo forse con troppa lentezza, tracciabilità, probabilmente anche dichiarazioni patrimoniali assieme alle dichiarazioni dei redditi, anche l'ausilio dei professionisti, perché no, dei commercialisti per la certificazione e da ultimo una riforma del mercato del lavoro per rendere più flessibile il lavoro fisso e meno precario quello a termine. Se manca qualcosa, dia chi ha di più. Chi ha di più non è chi guadagna di più, chi possiede di più. Questo potrebbe essere il patto per l'Italia, un patto per cui valga veramente la pena di sottoscrivere i titoli di Stato, non tanto per i rendimenti che danno, ma per il paese che pensiamo di poter realizzare con questi sforzi. Allora, proprio sul tema dell'evasione, Siciliotti, ci stanno arrivando, ci sono arrivate nei giorni scorsi parecchie domande su questo tema, sul tema del cosiddetto contrasto di interessi. Lo abbiamo spiegato più volte in cosa consiste. Consiste nell'idea di poter portare scontrini e fatture nella propria dichiarazione dei redditi, cioè ti fai imbiancare casa, ti fai fare la fattura. Perché in questo modo lo puoi portare in dichiarazione dei redditi e ne hai dei benefici fiscali. E questo di fatto ti spinge, è il tuo incentivo a chiedere la fattura invece di decidere di pagare magari il 19% in meno, il 20% in meno, non pagando l'IVA e pagando tutto in nero, all'imbianchino. Allora, lei come la vede da questo lato? È la soluzione o è un pezzo della soluzione? Guardi, probabilmente è un pezzo della soluzione, spiego perché. Questo è sostanzialmente il modello americano. In America si deduce anche la pompa di sentina della barca a vela, o forse è probabilmente un'esagerazione, ma che comunque c'è un'ampia griglia di beni che sono deducibili. Il tema è quello dei controlli. Più rendo deducibili le fatture, i beni, la spesa, e più deve essere estesa la rete dei controlli. Già oggi si fa fatica l'amministrazione finanziaria a controllare quello che c'è. Si potrebbe arrivare a quest'idea, accoppiata all'idea, lo dico da tempo, di coinvolgere i professionisti in questi controlli. Una certificazione delle dichiarazioni dei redditi con assunzione di responsabilità da parte del professionista. Questo è un sistema moderno che non grava tutto sull'amministrazione finanziaria, ma appalta funzioni a tecnici specializzati, responsabilizzandoli al tempo stesso. Questa è un'idea che abbiamo lanciato più volte e renderebbe probabilmente possibile quello che in una situazione come quella attuale è molto difficile fare per via dell'impossibilità di eseguire appunto tutti questi controlli. L'ipotesi di aumento dell'IVA, Ciciliotti? Ma sai, in questo contesto, se noi arriviamo a immaginare uno Stato in cui effettivamente si riduca di un punto di PIL la tassazione sul lavoro, dipendente e autonomo, è quello che serve a colmare questo gap. Alcuni esempi li ho fatti prima, se manca qualcosa ci può stare pure l'IVA. È sicuramente più democratico l'aumento dell'IVA di quanto non lo sia un'imposizione sul lavoro. Naturalmente. E per quanto riguarda proprio la questione dell'IVA, c'è un'obiezione che arriva, che sta crescendo in queste ore. Dicono, sì, però alla fine l'IVA è anche l'imposta più evasa, quindi non è che tu incrementi l'IVA e automaticamente incrementi le entrate, può darsi anche che incrementando l'IVA incrementi l'evasione. Può essere, ma la lotta all'evasione deve essere un punto centrale. E mi faccia dire un'altra cosa, siccome si legge anche contrasti di interesse, i controlli reciproci, eccetera, non ci sarà mai un'efficacia di questo sistema finché non si dirà ai cittadini che i proventi del recupero dell'evasione non vanno tanto a sfinanziare una spesa pubblica pletorica e inefficiente, ma vanno a ridurre le imposte di chi le paga. Questo è il messaggio che dovremmo dare e che tuttora manca, perché si ha la sensazione: perché devo collaborare? Alla fine collaboro, ma nella collaborazione alla fine ci guadagna lo Stato o ci guadagna comunque un carrozzone che si mantiene inalterato. Per questo credo che al di là della manovra, che no, si chiuderà pure lunedì, ma non si chiude lunedì l'Italia e manca un progetto per il futuro di questo paese. Allora l'appello a tutte le forze politiche che senza distinzioni di sorta si uniscano per individuare un percorso del futuro di questo paese. Si parla troppo poco, la politica è troppo orientata ieri dai sondaggi, oggi dai mercati. Manca un progetto futuro su questo paese. Penso che ce ne sia bisogno e che questo bisogno sopravviverà anche martedì. Grazie dunque a Claudio Ciciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, per essere stato con noi, e buonasera Ciciliotti. Grazie a tutti voi. Noi però restiamo sulla manovra ancora per un attimo. Perché? Perché abbiamo da farvi sentire un'ultima voce di questa giornata, quella raccolta da Alessandra Schepisi di Franca Biglio, quella presidente ANPCI, che è l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani. Sentiamo. L'obiettivo è uno solo, dal quale noi non possiamo derogare: lo stralcio dell'articolo 16 del decreto legislativo 138 approvato addirittura il 13 agosto, forse sperando che i sindaci dei piccoli comuni fossero in vacanza. Ma visto che i sindaci dei piccoli comuni in vacanza non vanno, e la maggior parte di loro il giorno di Ferragosto era in comune, immediatamente prima, scattata la protesta. Detto, non possiamo abbandonare resistenza. Un territorio così vasto, a forte rischio idrogeologico, gestito dall'istituzione diretta che si confronta ogni giorno, quotidianamente, lavora in trincea, sa rimboccarsi le maniche e si confronta ogni giorno col cittadino. È impensabile, non riesco a capire che razza di buonsenso abbia potuto ispirare un provvedimento del genere. Come avrete intuito, il tutto avveniva durante una protesta davanti al Parlamento da parte dei piccoli comuni. Ci dite, riferendovi a quello che ci diceva Siciliotti, dice: ma come innalzare l'età pensionabile? State tutti comodamente seduti a dircelo, poi bisogna lavorare di più. Però devo dire che il dato che ci segnalava Siciliotti è veramente impressionante, cioè abbiamo, se solo un 30% della popolazione tra i 55 e i 65 è attiva, è un elemento su cui riflettere naturalmente. Abbiamo una breve pausa e poi ci occuperemo dello sciopero dei calciatori. Ci ha già raggiunto in studio il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Buonasera Marco. Buonasera. Ne parleremo tra un attimo. minuti e 25 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Vi comunico intanto che la borsa italiana ha chiuso in negativo, meno 0,97% sul FTSE MIB, meno 0,72% sul FTSE All Share. L'America va bene per il momento, mezzo punto percentuale di guadagno sul Dow Jones e addirittura un punto e mezzo sul Nasdaq, quindi tutto tranquillo almeno per il momento dall'altra parte dell'oceano. Dopo le parole di Bernanke, ci scrive Alberto: a chi ha cominciato a lavorare a 16-17 anni e chiediamo di lavorare per 50 anni. No, non è esattamente questo, perché poi si somma l'anzianità professionale, come dire, alla vecchiaia vera e propria in questi casi, quindi non è questo il ragionamento. Comunque adesso, come si diceva, ci occupiamo di calcio. Cosa è successo? È successo, lo sapete benissimo, che è saltata la prima giornata di campionato, meglio è stata rinviata in realtà, perché non è saltata per nulla. Non c'è accordo di fatto sul contratto, parlano tutti quanti, parla Giancarlo Abete, dice: vabbè, rinviamo, esprimo la mia amarezza, a rischio ci sono altre giornate. La prima giornata è rinviata, data da destinarsi. Il presidente dell'associazione calciatori ed ex calciatore Damiano Tommasi dice: la Lega di Calcio dice no a prescindere. Registriamo anche la marcia indietro del ministro della semplificazione Roberto Calderoli, che fino a ieri se la prendeva con i calciatori e oggi dice: credo che stavolta i presidenti farebbero bene ad accogliere la richiesta dei calciatori e far partire il campionato. Se il problema è il contributo di solidarietà, lo risolviamo noi per legge. Così ve la diamo così com'è. Allora, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, non è solo una questione di contributo di solidarietà in realtà questa vicenda dei calciatori, perché sennò poi passa l'idea che no, lo sciopero dei miliardari contro il contributo di solidarietà. Non è solo questo il punto. Non è questo, come Abete ha detto qualche giorno fa, affermando appunto di vergognarsi di occuparsi di una questione del genere in un momento così difficile per il paese. Anch'io me ne vergogno un po', ma per dovere professionale ce ne occupiamo. Bisogna sgombrare il campo da una serie di equivoci. Allora, il problema del contributo di solidarietà nasce in realtà dai contratti che venivano stipulati con i calciatori in base al vecchio accordo collettivo, contratti che prevedevano sì l'indicazione del lordo, ma che poi garantivano al calciatore un ingaggio netto. Di conseguenza tutte le imposte supplementari sono a carico delle società. Non è che i calciatori non pagano le imposte, le paga la società. Chiariscici una cosa, Marco, questo riguarda, immagino, soprattutto i grandi calciatori, cioè chi ha un potere contrattuale forte nei confronti della società. In realtà riguarda la gran parte dei calciatori. Chiaramente i big hanno contratti a netto, ma anche i giocatori di fascia media. Se tu consideri che lo stipendio medio di un calciatore di Serie A è di 1 milione, 1 milione e 3 netto, è chiaro che tutti rientrano nel contributo di solidarietà e tutti hanno contratti al netto. Questo significa che la società fa la ritenuta d'imposta come un qualsiasi datore di lavoro, perché i giocatori sono lavoratori subordinati per quanto con alti ingaggi. A quel punto però, se il calciatore ha in busta paga un netto, può rivolgersi a un tribunale e pretendere che la società gli paghi il netto, che quindi non gli accolli quel contributo, quel 5% in più. Vi segnalo tra l'altro che sul sito del Sole 24 Ore, se ve lo andate a cercare, trovate una bella tabella, che forse hai elaborato proprio tu, Marco, che riguarda, prende i primi 22-23 calciatori circa per livello di stipendi, calcola il contributo di solidarietà che dovrebbe pagare ciascuno. Ne esce fuori una cifra complessiva intorno ai 7 milioni di euro solamente per i primi 20. Sì, di fatto alla Serie A questo giochetto in 3 anni potrebbe costare 100 milioni. Ecco perché le società, temendo di subire poi dei contenziosi e di dover poi comunque pagare ai calciatori queste somme, non hanno accettato quel fondo di garanzia che ha proposto ieri la FIGC di 20 milioni, che coprirebbe teoricamente soltanto un quinto dell'esborso. E questo è il lato più puramente economico. Esattamente. E poi invece c'è un lato contrattuale, che è stato il vero snodo che ha percorso la vicenda negli ultimi 6-7 mesi. Di fatto, allora, il contributo di solidarietà è comparso negli ultimi mesi e praticamente i presidenti, per tutelarsi, vorrebbero che nel contratto collettivo che non hanno firmato venisse inserita una clausola che chiarisse in maniera esplicita che il contributo di solidarietà lo pagano i calciatori. Quando Calderoli dice risolviamo noi la questione per via legislativa, si riferisce al fatto che magari in sede di conversione del decreto di Ferragosto sarà esplicitato che il contributo di solidarietà è a carico del dipendente, del lavoratore. C'è poi l'altra questione a cui accennavi tu, quella storica, è quella dei fuori rosa, perché i presidenti, magari non spessissimo, ma qualcuno era abituato a farlo, quando un giocatore non rientrava più nei piani tattici dell'allenatore, usava metodi abbastanza sbrigativi, magari non facendolo più allenare con la prima squadra, mandandolo ad allenarsi sotto la tribuna dei tifosi che lo contestavano, insomma metodi quasi da mobbing, se non in alcuni casi di mobbing. Per cui l'associazione dei calciatori guidata da Damiano Tommasi voleva tutta una serie di garanzie, voleva appunto che venisse tutelata la dignità professionale dei calciatori, mentre le società vorrebbero avere il diritto di organizzare allenamenti separati, viste anche le grandi rose che ormai compongono i roster delle varie squadre. Su questo punto non si è trovato nemmeno un accordo, sull'altro benché meno, e si è arrivati insomma a questo rinvio. Allo sciopero. Adesso io ti chiedo, visto che questa trasmissione economica, Marco, di darci un'idea di giro d'affari, perché vi ricordiamo che tra l'altro ieri c'è stata, come era prevedibile, la presa di posizione di Sky, che dice non tradite la fiducia dei tifosi, non intendiamo interferire sulla trattativa in corso, ma serve responsabilità e dialogo, perché dietro c'è tutta una questione di anche contratti da rispettare con le società televisive. Beh, chi compra i diritti. Il giro d'affari è enorme. Pensiamo soltanto alle scommesse, già si calcola che il giro d'affari perso in termini di scommesse, che significa anche entrate tributarie per lo Stato, è di circa 20 milioni per questo rinvio. Per quanto riguarda la questione dei diritti televisivi, è chiaro che si crea un precedente molto complicato, e un precedente che si aggiunge al fatto che il calcio italiano, il campionato di Serie A, è sempre più un campionato in tono minore, con big che partono e big che non arrivano. C'è stato lo scandalo del calcio scommesse. L'anno prossimo dovrà essere rinnovato il contratto collettivo delle TV, e quel miliardo all'anno che le TV garantiscono al calcio italiano e che tengono a galla il calcio italiano probabilmente non sarà più garantito, e se le TV appunto dovessero chiudere i cordoni della borsa, molte società andrebbero in serie difficoltà economico. Per cui Sky chiaramente non può interferire, tiene un profilo alto, ma è evidente che un precedente così importante, con la prima giornata che salta, palinsesti che dovranno essere riorganizzati, mette un po' di dubbi sulla possibilità appunto che si ottenga questo famoso miliardo anche per il prossimo triennio. All'orizzonte saltassero altre giornate, tu vedi la possibilità di problemi legali, chiamiamoli così? Beh, guarda, ci stanno riflettendo al CONI, che è l'ente che vigila sul mondo dello sport per conto, diciamo, del governo, e in linea di massima il CONI potrebbe anche nominare eventualmente un commissario ad acta che potrebbe sostituire i presidenti nella firma del contratto per far giocare almeno la seconda giornata. Tra due settimane, ricordiamo, si dovrebbe giocare la seconda giornata. I presidenti ovviamente non vogliono essere espropriati, ma è chiaro che si arriverà a conseguenze estreme se un accordo non si trova. Tra l'altro però Ghirardi, presidente del Parma, ha appena detto che dovrà essere riconvocata un'assemblea per studiare questo accordo ponte, che era l'ultima offerta dei calciatori, cioè firmare il contratto così com'è, iniziare a giocare e poi ridiscutere il contratto collettivo a giugno. Magari questa la soluzione che si profilerà. E questa potrebbe essere la soluzione, vedremo che cosa succederà. Marco Bellinazzo ha detto due settimane perché salta questa e poi in mezzo c'è un fine settimana di nazionale, quindi di fatto il campionato italiano di calcio è fermo. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Grazie Ore, buonasera. E adesso i mercati. Ceo Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, inizialmente i mercati avevano mal interpretato o preso male le parole di Bernanchi, poi invece hanno cambiato idea. Ma sì, possiamo dire così, anche se ultimamente durante le sedute spesso i comportamenti degli operatori sembrano alquanto irrazionali. Come dicevi tu, dopo le parole di Bernanke, che non ha appunto accennato a una terza e nuova manovra di quantitative easing, cioè di easing, cioè di immissione di nuova liquidità sul mercato, i listini sono piombati, Milano è arrivato a perdere oltre il 3%, poi evidentemente qualcuno è tornato ad acquistare, Milano addirittura negli ultimi minuti era quasi arrivata a sfiorare la parità, è arrivata a meno 0,5, poi la chiusura meno 0,97%, Parigi perde l'1%, Francoforte lo 0,84%, su Milano comunque tornano a perdere i settori più penalizzati degli ultimi giorni, cioè i finanziari e la galassia Fiat oggi perde il 2,4%. Come mai? I finanziari, ma insomma, oggi c'è stato un report di Royal Bank of Scotland, ieri ce n'era stato uno di Deutsche Bank che era stato negativo sui finanziari, ma in borsa erano arrivati gli acquisti. Oggi un altro report negativo di Royal Bank of Scotland, che ha tagliato numerosi target price, unica eccezione è quello di Intesa, che è salito da 1,6 a 1,7 euro, e così è arrivata una pioggia di vendite. UBI Bank a meno 4,22% su questo titolo, per esempio la banca inglese era stata molto eloquente perché come raccomandazione da quella di vendere, e il prezzo obiettivo è stato ridotto da 5,5 euro a 2,3 euro. Ricordiamo, cioè, giusto per chiarirlo, che questi tra l'altro sono tutti titoli sui quali sono bloccate le vendite allo scoperto, blocco le vendite allo scoperto esteso tra l'altro fino a quando l'ha esteso la Consob? Sì, sicuramente per le prossime settimane, insomma. Sì, allora una pausa per la viabilità e poi parliamo degli altri titoli. Chiedete quante sono le settimane, sono circa 4, sono 5, perché il divieto è stato esteso, il divieto di vendita allo scoperto è stato esteso fino al 30 settembre, ma come vediamo non sembra funzionare un granché, tende a funzionare sì, ma nel brevissimo periodo. Per quanto riguarda Fiat invece... Per Fiat c'è un report anche in questo caso di Barclays, che peraltro sottolinea un concetto di assoluto buon senso, cioè il fatto che la casa automobilistica italiana potrebbe pagare più di altre il rallentamento della congiuntura. Se pensiamo che Fiat vende soprattutto in Italia, che l'Italia, la congiuntura italiana è ormai praticamente ferma da alcuni mesi, il senso è chiaro, insomma. E poi quelle che sono le vendite di Fiat, che ogni mese diminuiscono costantemente, parlano da sole. Poi Impregilo, che alla fine chiude la giornata in positivo, un più 1,29%, era arrivata quasi a ridosso della parità nei momenti più brutti, peggiori della giornata. Sì, Impregilo Giro è riuscito a tenere bene alla fine, come dici tu, più 1,29%, oggi la semestrale con ricavi oltre un miliardo, gli utili sono calati nel primo semestre a 39 milioni, però gli operatori sono concentrati soprattutto sulle previsioni del 2011, che i vertici di Impregilo hanno sottolineato che non considerano la ripresa dell'operatività in Libia. Ciò vuol dire che, insomma, se la situazione libica, ci auguriamo si risolve nelle prossime settimane, nel più breve tempo possibile, anche questo segmento di business potrebbe tornare a dare soddisfazione a Impregilo, a tutto beneficio dei conti. Questo per quanto riguarda Impregilo. L'altro titolo che è andato molto bene oggi è Prysmian, che guadagna un 2,33%. Ha diffuso la semestrale, ma è arrivata a mercati chiusi o quando erano ancora aperti, Ceo? Erano ancora aperti, più 47% l'utile adjusted a 113 milioni, che significa che questo utile adjusted, in parole povere, non considera oneri e proventi non ricorrenti, cioè una tantum. Quindi, sono andando a guardare il business vero e proprio del gruppo, è andato bene nel primo semestre, e infatti il titolo più 2,33%, a dire il vero già ieri era cresciuta molto questa società, evidentemente tra gli operatori, diciamo, quello che si chiama consensus era già positivo. Bene Pirelli più 0,96%, ST Microelectronics che guadagna lo 0,7%, Fiat l'Industrial naturalmente che guadagna lo 0,6%, TOTS lo 0,34%, Enel Green Power lo 0,26%, Telecom Italia lo 0,25%, Saipem lo 0,24%, Snam Rete Gas anche più 0,24%. Sembra che l'energia si stia un po' riprendendo dalla botta che aveva preso sulla notizia della Robin Tax. Sì, in ordine sparso, perché poi oggi Enel ha perso l'1,6%, però giustamente Snam Rete Gas, che era una delle utility più colpite, oggi ha fatto un altro piccolo passettino in avanti, questo ovviamente in attesa che arrivi chiarezza dal governo su quella che poi sarà l'aliquota addizionale finale, la IRES sulle utility. Tornano le vendite invece su Finmeccanica. Eh sì, il titolo basta vedere i valori, è tornato di nuovo sotto quota 5 euro, 4,8, meno 1,88%, evidentemente le nubi sul business di questa società, che negli ultimi mesi è stata soggetta a una serie di eventi non propriamente positivi, restano, gli operatori sono ancora molto scettici. Questo mi sembra il quadro di giornata. Qualcosa da segnalare dal lato dei cambi, Ceo? Movimenti particolari oggi? Ma no, non particolari, neanche l'atteso discorso di Bernanke. Grazie a Ceo Condina di Radio Cori Il Sole 24 Ore per essere stato con noi e buonasera. Grazie a voi, buona serata. Gli altri titoli di questa giornata: Mediolanum giù dell'1,82%, giù Eni ed Enel dell'1,6% entrambe, dell'1,5% Generali, Mediaset dell'1,4%, Autogrill dell'1,3%, così come Intesa San Paolo e Mediobanca in realtà meno 1,28%, quasi un punto percentuale di ribasso per Terna, giù dello 0,8% Buzzi Unicem e Ansaldo, dello 0,6 Tenaris e Azimut, Lottomatica dello 0,3%, Atlantia dello 0,28%, Odia Sorin dello 0,17%, Campari dello 0,09%, Fondiaria Assai dello 0,07%, gli altri titoli ve li abbiamo dati, comunque A2A è lievemente sopra la parità, un guadagno dello 0,05%, così come Luxottica e Bulgari che guadagna lo 0,08%, siamo insomma su rialzi minimi, e Unicredit lo 0,17%. Dal lato dei cambi, anche qua, come si diceva, nessun movimento particolare, comunque l'euro quota contro franco 1,16,24 in questo momento e contro dollaro 1,44,7. Tutto questo mentre la borsa americana guadagna mezzo punto percentuale sul Dow Jones e l'1,47% sul Nasdaq. Il resto d'Europa non vi abbiamo dato un quadro, Francoforte scende dello 0,84%, Parigi dell'1,01%, Londra ha lasciato sul terreno pochissimo, lo 0,02%, tutto questo in una situazione, come si diceva, nella quale Piazza Affari ha perso appunto lo 0,97%. Questo il quadro della giornata di borsa. Vediamo un attimo E veniamo all'altro tema, parliamo di America. Ci scrivete, tra l'altro, anche tutti i dipendenti hanno la busta al netto come i calciatori, quindi dovrebbero essere i datori di lavoro a pagare il contributo di solidarietà. Ancora quindi su questo tema. L'America, si diceva, questa naturalmente era la grande attesa dei mercati. Le dichiarazioni, si attendeva l'intervento al tradizionale convegno di Jackson Hole del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. Un intervento nel quale alcuni si aspettavano di trovare delle indicazioni su nuove operazioni di cosiddetto quantitative easing. Sono di fatto delle iniezioni di liquidità. Il meccanismo è lievemente più complesso. È una mossa generalmente considerata non convenzionale da parte delle banche centrali. Comunque è un modo per immettere liquidità sui mercati, dare ossigeno all'economia, per così dire. In realtà niente di tutto questo da parte di Bernanke è stato annunciato. La crescita, ha parlato Ben Bernanke di crescita americana. Ha detto che sì, la Fed è pronta a utilizzare alcuni strumenti a sua disposizione per sostenere la crescita, ma non ha specificato quali strumenti siano. E poi ha detto che la velocità della ripresa delude e che ci sono dei rischi per quanto riguarda la crescita. E ancora ha detto che l'Europa farà il necessario per risolvere la crisi. Vedremo dunque che cosa succederà. Questo, quel che è successo dal lato americano, mentre il dato sul PIL del secondo trimestre è stato tagliato ad un più 1%, da un più 1,3 precedente. Noi chiudiamo parlando proprio di Fiat. E sentiamo l'intervista, come vi annunciavamo, che ha realizzato poco fa Paolo Piacenza con il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Noi abbiamo avvertito l'esigenza di dare certezza anche agli accordi precedenti, la recente intesa interconfederale, e soprattutto abbiamo voluto definire la capacità degli accordi aziendali e territoriali. Queste norme sono state, come è noto, apprezzate da un blocco sociale ampio che ha compreso in pratica tutte le organizzazioni tranne la CGIL, e ora l'amministratore delegato Marchionne a sua volta le ha apprezzate e ha verificato che il governo sia determinato a volerne avere la conversione in legge, e in questo quadro certo ha dichiarato che gli investimenti sarebbero proceduti a partire da Grugliasco, cioè a partire dall'investimento relativo alla vettura Maserati nello stabilimento di Grugliasco, ma più in generale il programma Fabbrica Italia avrebbe potuto riprendere. Ecco, per quanto riguarda lo stabilimento di Mirafiori, fonti interne alla Fiat hanno evidenziato che c'è un problema di tempi un po' più lunghi legati alla valutazione del cambio euro-dollaro. Ecco, ha avuto l'impressione, parlando con Marchionne, che questi tempi, insomma, siano incerti, siano vicini? Io credo che la volontà di realizzare quegli investimenti sia tutta confermata. Certo, gli andamenti del mercato globale, in modo particolare gli andamenti del cambio tra euro e dollaro ed altre variabili che caratterizzano il mondo in questo tempo possono influenzare i tempi di questi stessi investimenti, però credo che in Mirafiori già alcuni investimenti siano stati realizzati e quindi anche questo dato oggettivo rende irreversibile quel percorso, come ancor più irreversibile è certamente a Pomigliano. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione, Mauro De Angeli in regia. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto. Focus Economia torna lunedì dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.